siamo in piazza. Dove vi trovate adesso col corteo, Giulia? Adesso la coda del corteo sta a metà di via Cavour, al terzo della metro. Abbiamo appena segnalato due palazzi vuoti che già erano stati segnalati nella zona del sentimento del basso, con una nuova campagna che sarà quella di Kill Building, un film che in questa città si ripete, che è quello della speculazione, dei palazzi lasciati vuoti e sfitti. E d'ora in poi cominceremo con questo sentimento dal basso che appunto denunci tutte queste situazioni di speculazione. Non è possibile che in questa città ci siano 270.000 appartamenti vuoti e migliaia di famiglie in emergenza abitativa. Il corteo è un fiume umano, è riuscitissimo secondo noi dal punto di vista veramente del mischiarsi e del contaminarsi a vicenda, insomma non ci sono camion uno per ogni struttura o uno per ogni presunta area, eccetera. Qui c'è veramente il popolo dell'altra Roma, quello che abbiamo chiamato a difendere le occupazioni, la nostra, il nostro spazio di libertà e di agibilità nella città, e penso che la risposta è veramente significativa. Senti, ci dicevano che il corteo sta crescendo mano a mano, tu vuoi azzardare qualche cifra? Sì, scusa, non ho sentito l'ultima parte. Volevo sapere se volevi azzardare qualche cifra dei partecipanti, visto che mi dicono che cresce. Guarda, di momento. Ormai pure i giornalisti confermano 10.000. Ottimo. Quindi, insomma, all'inizio pensavamo di averla sparata un po' grossa, invece penso che più o meno, insomma, siamo intorno a quella cifra. Sì, guarda, puoi anche aggiudicare. A giudicare dalle telefonate che arrivano in radio, c'è tanta gente che ha raggiunto il corteo mano a mano, insomma, hanno voluto. Sì, infatti, il corteo in effetti si presentava proprio come una vera e propria maratona. L'idea era quella appunto di unire più punti della città, che per chi, insomma, per la rete che ha organizzato questo corteo, hanno un forte portato simbolico. Insomma, il fatto di partire da un'occupazione con 300 nuclei familiari che rischiano lo sgombero solo per una politica elettoralistica, perché poi in realtà i soldi per ripristinare l'ospedale non ci sono per niente, cioè ricordiamo il buco di 10 miliardi di euro della sanità laziale grazie a Storace prima, a Marrazzo poi, che insomma con il meccanismo delle privatizzazioni e dell'esternalizzazione dei servizi sanitari, insomma, hanno costruito questo buco e un sistema dal punto di vista del diritto alla salute del tutto inefficiente. Abbiamo occupato quell'ospedale dopo anni di abbandono, e appena occupato subito sembrava che fossero usciti i soldi per rimetterlo a posto. Ma abbiamo fatto l'incontro la settimana scorsa con Battaglia, che poi insomma è stato dimesso in qualche modo, e ci ha assicurato che questi soldi non ci stanno per niente, quindi prima la soluzione per le famiglie e poi eventualmente appunto la liberazione del palazzo. Questo è quello che si chiede per tutte le occupazioni abitative, quindi ovviamente la garanzia di un diritto alla casa per tutti e tutte, compresi i migranti, che nelle nostre occupazioni, a differenza di quelle di Casa Italia, sono tanti, perché sono uno dei soggetti totalmente esclusi dal mercato libero, per così dire. Poi libero non è per niente, né degli affitti né della vendita, perché sappiamo che ci sono i poteri forti che dominano e regolano i prezzi degli affitti. Quindi assolutamente contro tutte le manovre che sono state fatte di privatizzazione del patrimonio pubblico, degli enti pubblici, che hanno, almeno in questa città, cioè sono numerosissime le case degli enti e hanno sostenuto per anni in una sorta di stato sociale le famiglie di ceto medio, ferrovieri, autoferrotranvieri, i postini, eccetera eccetera. Tutto questo non c'è più, è stato completamente smantellato, lasciato al libero mercato. Adesso ci ritroviamo che per aprire un mutuo devi fare il tasso variabile, tutte le storie che conosciamo tutti. Fondamentalmente siamo insomma alla fascia che oltre l'occupazione non è che può fare tanto. Quindi difendiamo il diritto ad occupare, difendiamo il diritto a reclamare appunto un diritto universale all'abitare per tutti e tutte. Senti, oltre appunto a queste vertenze, a questi interlocutori con cui tocca rapportarsi per portare avanti queste battaglie, poi invece ci sono anche i loro mazzieri che vengono ad aggredirci. Ci vuoi raccontare cosa è successo l'altra notte all'Acrobax? Sì, l'altra notte appunto avevamo appena chiuso la serata con una cena di sottoscrizione per City of God, che è stato un giornale della Free Press precaria, che abbiamo distribuito oltre 5.000 copie oggi al corteo e che si può trovare ovviamente online, scaricabile gratuitamente. E avevamo appena finito la serata, erano circa le 2:30, e per fortuna insomma stavamo su un livello di allerta, insomma chiaramente non è che lo dice soltanto che c'è pericolo di sgomberi, c'è pericolo di attacchi fascisti eccetera, quindi per fortuna eravamo allertati, stavamo sul tetto quando abbiamo visto arrivare questa macchina a fari spenti. Si sono fermati e sono scesi con quello che insomma, noi pensiamo sia un ordigno, poi di che misura, di che calibro, non lo sappiamo ovviamente. E da lì abbiamo cominciato insomma una sassaiola, lancio di bottiglie, eccetera. e mettendoli in fuga, insomma. Purtroppo, io dico, insomma, non siamo neanche riusciti a fargli male, però insomma quantomeno abbiamo sventato l'attacco. Dopo pochi minuti abbiamo sentito anche un'esplosione più in fondo a via della Vasca Navale, e sempre insomma, cioè, la descrizione, proprio mera descrizione della cosa, è stata che comunque c'era un blocco di congiunto di polizia e carabinieri su Viale Marconi, appena dopo si, appena dove si tira insomma all'imbocco del cinodromo. E dopo, insomma, dopo una mezz'ora sono anche passate macchine carabinieri a strombazzare col clacson, eccetera. Quindi insomma, noi il livello d'allarme, cioè, abbiamo deciso di rendere pubblica ovviamente questa cosa, per quanto insomma è una delle tante purtroppo che succedono, eccetera, proprio per tenere alto un livello di allerta e anche per continuare a denunciare il fatto che questi fascisti hanno delle coperture sia istituzionali e quelle, vabbè, sotto gli effetti, insomma, sono riusciti a eleggere anche consiglieri municipali, comunali, eccetera, ma sia anche tra le forze dell'ordine che continuano a spalleggiarle. A questo voglio aggiungere anche ovviamente insomma che c'è questo problema serio che dobbiamo cominciare ad affermare tutti, che c'è un diritto alla difesa, all'autodifesa, che non viene assolutamente riconosciuto insomma dentro la giustizia ordinaria, che ovviamente appena uno subisce un'aggressione diventa una parte attiva di una rissa, per cui noi abbiamo ricevuto, insomma, a parte quello che è successo alla Sapienza, insomma, eccetera, mostra agli arresti domiciliari. Ricordiamo tra l'altro appunto che parecchi striscioni ne chiedono la libertà, certo, al corteo, certo, di oggi. Subito, ci aspettavamo che il tribunale di riesame tornasse indietro insomma su quella decisione assurda presa, volendo insomma su spinte politiche immediate del momento, non è, così non è stato, quindi la battaglia continua fino al 2 luglio, il processo, eccetera. Dopodiché appunto è notizia di un paio di giorni fa che i quattro immigrati, insomma tutte persone nazionali italiane, che erano state vittime dell'aggressione di Casal Bertone, che tutti ricordiamo, e quindi costrette ad andarsi a curare in ospedale perché uno c'aveva 3 coltellate all'addome, 2 c'era una testa spaccata, un'altra una signora diabetica che si è sentita male, costretti ad andare all'ospedale, sono stati forzati dalle forze dell'ordine a sporgere denuncia, a identificare i responsabili dell'aggressione. Dopodiché questa denuncia si è trasformata in una denuncia a nostra volta per il reato di aggressione e di rissa aggravata. E quindi adesso abbiamo appunto queste 4 persone che sono guarite, ma insomma denunciate per rissa aggravata. E appunto, cioè, rileviamo questo problema nella giustizia ordinaria, che non riconosce assolutamente appunto il diritto all'autodifesa. Beh, noi lo continueremo a praticare. Diciamo che lo riconosce soltanto quando si tratta di un gioielliere che spara al rapinatore, allora a quel punto lo comincio a riconoscerlo. Insomma. Esatto. Bene, noi ti ringraziamo del tuo contributo. Grazie, e continuiamo a sentirci più avanti dalla manifestazione. Grazie a voi. Ciao. Ciao. A tutti.